La maggior parte di sofferenza dell'essere umano deriva dal fatto che egli è una creatura imperfetta, incompleta, bisognosa di tutto. Egli ha fame e perciò deve mangiare, ha sete e deve bere, è stanco e deve riposare, ha sonno e deve dormire. Se queste ed altre necessità non vengono soddisfatte, egli immancabilmente soffre. Un istinto non meno forte degli altri che l'essere umano deve soddisfare è quello sessuale. La cosa non sarebbe di per sé problematica se non fosse che per soddisfarlo occorre un partner. Infatti, mentre per il mangiare, per il dormire, per il bere e per tante altre necessità si può provvedere da soli, per il sesso questo non è possibile, se non in caso di anormalità. E qui nascono i problemi. La cosa è facilmente comprensibile, perché mentre uno può mangiare quando vuole, può dormire quanto ne ha voglia, può bere secondo le sue necessità, per soddisfare il proprio bisogno sessuale, l'uomo o la donna bisognano di un partner che partecipi. E come una persona affamata può arrivare persino a compiere atti estremi per sfamarsi, così una persona costretta al digiuno sessuale per soddisfare la propria esigenza può arrivare a costringere il partner, esercitando una forza fisica o psicologica pur di arrivare a soddisfazione. E di esigenza si tratta. Perché Gesù, riferendosi al maschio, ha detto che non può vivere senza avere rapporti sessuali, a meno che non gli sia data la capacità, cioè il dono, di contenersi. Ovviamente questo vale anche per la donna, ma Gesù ha parlato del maschio perché in genere gli è propria la necessità sessuale più forte. Perciò, se è difficile vivere di buon accordo tra amici i cui legami e necessità non sono così profondi, è comprensibile come sia difficile la convivenza tra marito e moglie avendo tante esigenze personali, soprattutto quelle sessuali. Essendo l'atto sessuale un atto di reciproco amore, un atto dove gli sposi trovano la più profonda intimità, poiché anima, spirito e corpo ne sono coinvolti, questa almeno dovrebbe essere la normalità, è evidente che tale atto rappresenti il momento più delicato in un rapporto di coppia. È quindi ovvio che in ogni ombra o dissidio in cui inceppi il cammino della coppia, il primo a risentirne sarà proprio il rapporto più delicato, cioè quello sessuale. Ma questo problema non si risolve molto facilmente. Un coniuge offeso, o comunque non in armonia con l'altro, può vendicarsi in diversi modi, per esempio non mangiando il cibo preparato dalla moglie. Può perdere il sonno o riposarsi male, ma tutto questo lascia pressoché l'altro, coniuge intatto e, nelle peggiori delle ipotesi, indifferente. Esiste sì una rottura, ma in fin dei conti ognuno può andare avanti anche senza l'altro. Ma non è così per il rapporto sessuale, perché, anche se offesi, immusoniti, innervositi, bisogna donarsi, bisogna partecipare. Nella maggioranza delle coppie, la persona più esigente nel campo sessuale è generalmente l'uomo. Quindi, più richiesta ci è, più grande è il patimento se questa non viene soddisfatta. È vero che la parola di Dio afferma che la sposa è la gioia dello sposo, che l'uomo trova nella donna la sua delizia. Ma tutto questo rimane vero quando vi è armonia. Ma dal momento che normalmente nel matrimonio vi sono tensioni e nervosismi come dei periodi di conflitto, e visto che proprio quello sessuale è il primo rapporto a risentirne, essendo l'uomo il più bisognoso fra i due coniugi, sarà anche colui che ne soffre di più. La sofferenza più grande non è rappresentata solo dall'astinenza, ma anche da un dolore morale e psicologico. Infatti, il rapporto sessuale, più che un incontro fisico, è un incontro d'amore. Prova ne è che un rapporto sessuale non motivato dall'affetto e da una completa disponibilità lascia insoddisfatti ambedue i partner, mentre un rapporto sincero, affettuoso, teso al bene reciproco, ma dando la precedenza a quello dell'altro, soddisfa ambedue i coniugi, comunque le cose vadano. Lo stato affettivo e la disponibilità della donna nel campo sessuale è quindi determinante per l'uomo. È quindi comprensibile che il marito, in certe situazioni di attrito con la moglie, abbia una duplice sofferenza. Egli soffre perché non ha il dono della continenza, meno altrimenti non si sarebbe sposato, meno e poi perché nell'incontro sessuale, o ancor peggio, nella negazione di questo, avverte la moglie assente e non disponibile. Nelle circostanze di tensione nella coppia, la donna che non può capire la sessualità maschile solitamente disprezza il metodo che il marito impiega per cercare l'incontro con la propria partner, ossia il rapporto sessuale. E per questo spesso una sessualità appagata dell'uomo dipende da una moglie comprensiva. Con questo non si vuol dire che questa debba ogni volta provare la stessa soddisfazione dell'uomo, ma piuttosto che nell'incontro essa abbia uno spirito e un corpo disponibile, che non faccia pesare al marito la sua incontinenza, che dimostri al marito di non essere dispiaciuta di essere cercata. Il sesso è un dono che la donna può trasformare in un dramma. È anche vero che l'uomo ha le sue responsabilità. Perché troppa esigenza e mancanza di delicatezza da parte dell'uomo possono rendere la moglie insofferente, ma con un piccolo sforzo per sdrammatizzare la situazione, la donna può donare all'uomo, e per ripercussione anche a se stessa, momenti di serenità e di gioia in un mondo dove la sofferenza maschile è elevata, dato che egli è una creatura imperfetta, incompleta. Come la donna, è vero, ma con l'aggiunta di dover dare sfogo a un'esigenza sessuale solitamente di gran lunga più intensa. Definita la caratteristica della sessualità maschile, è necessario prendere in esame quella femminile. Mentre nell'uomo la sessualità gioca un ruolo determinante, le esigenze primarie della donna sono rivolte altrove. Infatti, gli psicologi sostengono che, nel rapporto di coppia, mentre i bisogni principali dell'uomo sono il rispetto e l'ammirazione da parte della moglie, la compagnia di questa, un sostegno domestico e soprattutto un appagamento sessuale, la donna ha come necessità primarie l'affetto, il dialogo, una sicurezza economica e un impegno per la famiglia. Dunque, l'appagamento sessuale della donna per gli psicologi non è determinante. Queste sono le esigenze che hanno normalmente le coppie, ma qualche volta succede che nell'ambito sessuale le cose si capovolgano, ossia che la donna sia la più esigente, e quando la situazione sta così le cose si complicano. Infatti, mentre quando è la donna a non desiderare il rapporto basta la sua disponibilità perché l'uomo possa essere soddisfatto, se invece è il maschio a non desiderare il rapporto e il mancato desiderio di questo procura in lui l'impotenza, il rapporto sessuale non può avvenire. Perciò non si può paragonare la sofferenza di una mancata soddisfazione sessuale di una donna con quella dell'uomo. Dio ha creato il maschio e la femmina favorendo in qualche modo la sessualità e il maschio, perché per lui è sufficiente il desiderio ed esso può essere soddisfatto meno ovviamente moglie permettendo meno. Mentre, qualora l'uomo sia impotente, il desiderio sessuale della donna non può essere soddisfatto. Anche se l'uomo lo volesse, perlomeno non con un coito, questa differenza Dio non l'ha creata a caso. Perché l'aspetto più importante della sessualità non è il piacere che se ne può ricavare, ma è la continuazione della specie. Se la sessualità fosse più determinante nella donna, essa non servirebbe ai fini della procreazione, perché l'uomo non sarebbe in grado di soddisfarne le esigenze, ma dato che l'uomo ad essere il più potente in questo campo, la donna non ha nessun ostacolo per mantenere la razza se non quello del rifiuto. Ma poiché questo atteggiamento non dovrebbe esistere, i matrimoni procedono secondo le regole stabilite da Dio. Però non tutto è perduto, perché quando vi è il dialogo e quell'amore che vede i bisogni dell'altro importanti quanti i suoi, allora gli sposi sapranno trovare quella fantasia erotica che viene incontro anche alle più grandi mancanze, per realizzare un rapporto che è appagante per entrambi i coniugi. E l'amore, cioè il vivo e vero interesse per l'altro, che è in grado di sovvenire ad ogni problema sessuale. Quello che si è detto fin qui ha contemplato l'aspetto di quando in Nuovo Testamento rambi i coniugi abbiano il desiderio di collaborare e di aiutare il proprio partner. Ma se un coniuge non collabora, come comportarsi? Se un marito ha dei bisogni sessuali che la moglie non riesce o non vuole soddisfare, cosa deve fare? E se una moglie ha esigenze nell'ambito del sesso e il marito non vuole o non può soddisfare, cosa deve fare la donna? Come abbiamo detto, quella sessuale non è una necessità come le altre. Perché mentre le esigenze del mangiare e del dormire si possono soddisfare autonomamente, una sessualità appagante è possibile soddisfarla solo in due, E se l'altro non è disponibile o non ca, come fare? Chi non ha posto fede in Cristo non ha problemi nel cercare un altro corpo disponibile per soddisfarsi. Ma un cristiano che ritiene il matrimonio un patto di fedeltà al coniuge fino alla morte, come deve comportarsi? Si potrebbe cercare di trovare un lungo elenco di soluzioni, ma meno male meno e da un altro punto di vista, purtroppo perché tutti preferiamo avere più possibilità meno C, è una sola soluzione e questa soluzione si chiama sovranità di Dio. Per sovranità di Dio si intende che ogni momento e ogni situazione della nostra vita sia sotto al controllo di Dio, per cui non vi è gioia o problema che alla fine non rientri nel suo volere. Infatti, in merito all'affannarsi nella vita, per dimostrare che non vi era nessuna ragione di essere preoccupati, Gesù disse: «Non si vendono forse due passeri per un soldo? Eppure neanche uno di loro cade a terra, senza il volere del Padre vostro. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi siete da più di molti passeri». Matteo 10:29. Se prendiamo sul serio le parole di Gesù, egli ci vuole dire che in qualsiasi situazione ci troviamo non vi è nessuna ragione per stare in ansia. E se non abbiamo quello che dovremmo avere, dobbiamo accettare questo come volontà di Dio. Facile da dirsi, difficile da farsi. Eppure, anche la sessualità meno, la quale grida potentemente nel nostro corpo meno, per quanto si cerchi di gestirla, in definitiva è gestita meno, cioè condotta e regolata meno da Dio. La conclusione è che se Dio ci ha donato un partner che ha le stesse nostre esigenze e sensibilità nel campo sessuale, dobbiamo accoglierlo e ritenerlo come un altro dei suoi doni, diversamente. Accettare la sofferenza causata da una sessualità insoddisfatta e offrirla a Dio è, come di ogni altra sofferenza, un'offerta gradita a Dio. Più il costo è alto, più il dono è prezioso, ma sempre inferiore al dono di Dio di averci dato suo Figlio. Gennaio 2007. Ellero,